Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Enzino. Alla parte tecnica Simone. Une. Giovedì 26 marzo, Enzo. 2015, siamo ancora qua, di nuovo qua. Contro tutte le aspettative. È vero, continuiamo a essere presenti. Questa è Radio F. Questa è Piazza Alta. E noi parleremo anche stasera di Foiano. Ma come? Di un Foiano che è stato... E che rimarrà per sempre. C'ho la pelle d'oca, eh. Ma è freddo, non no, so. No. Sarà bellissimo perché in qualche modo ho assistito anch'io, ovviamente, da spettatore. Ma ne parliamo dopo, eh. Da puerpero. Da putto. Vabbè, no, bellissimo come inizio, bellissimo. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children. In the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest. Save us with the divine mockery of words, music and flames temperament. O great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. Great golden copulations. When the true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians arise in the land. Where are the feasts siamo alla grande con i Doors. Qui, qui è una tavola rotonda ormai. Qui la ferve l'agonismo stasera. Mai quanto stasera. I Doors, questa, caro il mio Marci, era The Ghost Song. Pensa che è una canzone incisa postuma praticamente, perché la canzone Fantasma praticamente, perché è stata incisa 7 anni dopo la morte di Jim Morrison, e hanno tratto il cantato, anzi il parlato, da una poesia che Jim Morrison aveva letto quando era ancora in vita, ovviamente. Ma il titolo, diciamo, i Doors stasera sono un po' in tema anche indirettamente, esatto, con l'argomento della serata. Ma prima di dire questa cosa, bisogna ricordare ricordare le nostre frequenze: 101.2 in modulazione di frequenza. Sì. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook Piazza Alta, su cui domani potete sentire il podcast, oppure in streaming, certo, scaricando la app in streaming www.radiof.it, oppure scaricando la app Radio F. Io facevo per dare un po' di ma perché dicevamo che questi Doors sono in tema con la serata? Perché The Doors, le porte. In un campo da calcio ce ne sono almeno due, almeno se è regolamentare. E perché? Perché stasera, caro il mio Marci, parliamo di un calcio che fu a Foiano e che ha dato il massimo prestigio in assoluto al nostro paese. Parliamo del calcio degli anni 70, e lo facciamo con tanti ospiti in studio. Che ora te le vogliamo anche salutare. Presentiamoli adesso. Diamo un nome ai nostri ospiti. Abbiamo Ser Luca Augusto. Buonasera. Augusto, no, non si fa così col capo, si dice buonasera. Buonasera. Ecco, no, perché sei ancora in radio. È abituato con la televisione, certo. Sì, infatti. Abbiamo Roberto Mostacci. Buonasera. Buonasera. Abbiamo Cerini Fausto. Fausto. Buonasera Fausto. Il medico sportivo. Il medico sportivo. Sì, poi diremo tutti i ruoli, Abbiamo poi Giuliano Poggini. Buonasera Giuliano. Buonasera a voi. Oh, ma prima di iniziare appunto a parlare con voi, voglio appunto dire meglio, se riesco, perché sì, non è detto. Ma se ti impegni ce la puoi fare. Avevi preparato praticamente, sì, tutto. Sì, però poi dopo mi sono confuso. Facciamo questa cosa ignobile che facciamo tutte le settimane. Allora, perché questa sera parleremo, come dicevo prima, adesso faccio proprio quello serio, e del Foiano che fu, ma che fu veramente prestigioso, perché arrivò fino alla Serie D. Attenzione, attenzione! Il calcio a Foiano, un'icona dei nostri tempi, dalle pallonate all'oratorio alla Serie D degli anni 70, una presenza costante, batte, passa, dribbla, tira, para, segna, esulta, il colore amaranto che coinvolge il paese da sempre, una scuola di vita e di sport per i giovani foianesi, un passatempo coinvolgente per chi sta sugli spalti, un segno che le palle a Foiano, ieri come oggi, girano, questa sera a Piazza Alta. Yeah. Questi erano i Viet Cong con Continental Shelf, perché anche in Asia il calcio sta prendendo, caro, certo, Marzi, certo, quindi ma... è importante non fermarsi. Il calcio unisce. Peccato che siano canadesi, mi fa segno Simone. Vabbè, ma anche in Canada, insomma, in Nord America. In ogni dove. Ma finalmente iniziamo a parlare. Io sono veramente gasatissimo, perché è incredibile. Sono arrivati i nostri ospiti, che ricordiamo: Augusto Serluca, Roberto Mostacci, Fausto Cerini e Giuliano Poggini. Poi diremo anche, ci faremo dire che cosa rappresentavano, che sono in quel periodo, illustri testimonial di quegli anni, degli anni 70, del calcio foianese o comunque della vita del paese, e hanno portato un sacco di documentazione, un tesoro veramente. Cercheremo di fare un po' di foto il più possibile e pubblicarle anche su Facebook. Ma iniziamo subito. Vuoi dire qualcosa di intelligente? No, dillo. In questo momento non ho niente di intelligente da dire. Vabbè, una riflessione la voglio fare, Enzo, e poi i nostri ospiti ce ne daranno atto, sul fatto dello sport a Foiano, che più si va anche indietro nel tempo, più ha avuto la sua importanza e ha dato lustro al paese. Assolutamente, mi trovi pienamente d'accordo. E quindi io vorrei anche capire, in quegli anni, lo sport, soprattutto il calcio, di cui vorremmo parlare stasera, come veniva vissuto e come veniva anche praticato. Allora facciamo così, iniziamo con Giuliano Poggini, che è stato presidente per molti anni e negli anni forse più importanti della società della CIF Foiano. Però iniziamo con una prima domanda, me l'ero preparata da qualche giorno. Come ha iniziato, Giuliano, cioè la tua carriera tra virgolette nella CIF Foiano? Dunque, la mia carriera iniziò proprio con un uomo di Piazza Alta. Beh, e il cerchio si chiude, direi. Iniziò con Ugolini Libero. Ah, beh. Sì. Ugolini Libero rientrava dall'Argentina, dove era andato negli anni 50. E in che anni questo, Giuliano? Nel 65-66. Okay. Cominciamo a fare organizzare insieme a tanti altri dei tornei di calcio. Allora andavano molto il torneo di Capolona. E il torneo iniziò anche il torneo di Bettolle, e poi lui ci chiese a noi, a me, a Valdambrini, a Pecchi, a tutti quelli che poteva avvicinare, di iscriversi al campionato di terza categoria, alla FIGC, perché in quegli anni lì non c'era una squadra iscritta alla FIGC a Foiano. Dunque la storia del Foiano è così, facciamola, vai, così almeno inizia capiamo. Nel 1919 con la Giglio Giallo, è uno stemma ripreso dai fiorentini che avevano conquistato nei secoli passati queste zone, certo. E è rimasto lo stemma del Giglio, che c'è anche in comune. Con la Giglio Giallo il Foiano ha giocato partite non di campionato, ma diciamo organizzavano dei tornei, delle partite amichevoli, comunque dette dei grandi giocatori anche in quel periodo. Poi nel 54 fu rifondato il Foiano, e in quel periodo vennero fuori i vari Pantani, che poi è finito in Serie A, certo. Luigi Mauro, Luigi che ha giocato in Serie C, e Lallo Maggi, che ha giocato nel Prato in Serie B e in altre squadre di B e di C. Già c'era un'impronta, ma anche, certo. anche quella fa parte delle grandi squadre che ha avuto il Foiano. Dopodiché ci fu una pausa, credo di 5-6 anni. Nel 67 noi facemmo una riunione, ci riunimmo e nominammo il Pecchio Ottorino presidente con le altre varie cariche, ci iscrivemmo alla terza categoria. Vincemmo subito questa... Ah, il primo anno? Sì, il primo anno, questa terza categoria, ma non avevamo lo stadio. Ok. Allora siamo andati con il sindaco Parigi, Mario Valdambrini, e il sottoscritto a Roma a chiedere... Allora io vi dico, permettetemi di dirla questa cosa. Devi. Noi eravamo giovanissimi, nessuno di noi aveva 30 anni, né il Parigi né Mario Valdambrini né io. Onesti era il presidente famosissimo, che tutti gli italiani credo ricordino, conoscano. Presidente FIGC. Siamo andati a Roma, Parigi era sindaco, giovanissimo, ma era sindaco. Certo. Ci siamo fatti ricevere, noi parlavamo col progetto, con tutto, lui ci guardava, poi diceva: ma che abbiamo detto, che cosa è che non va bene? Presidente... Io domandai: mi dica che cosa c'è? No, dicevi, guardavo, in tre fate la mia età, quanto volete? Gli disse al sindaco, dice: ma questo è un progetto da 110 milioni, 120 aggiudicato, state tranquilli che... Probabilmente vide l'entusiasmo che aveva portato fin lì. perché allora andare a Roma, non è che l'autostrada aveva aperto da poco, non è che era un discorso, non era così, così. Voi non eravate nati, ma insomma si parla del 67-68, alcuni studio sì. Sì, ma anche se eravate nati eri piccolini. Sì, sì, sì, no, no, no, ma... E così iniziò l'attività praticamente. Quando poi abbiamo avuto lo stadio, ma ci sono voluti tanti anni, insomma, nel 74 abbiamo cominciato anche, oltre ai campionati, a darci da fare per vedere di organizzare qualcosa. E voi sapete benissimo che cominciarono a venire, con l'apogeo vicino, un'uscita dell'autostrada, il Perugia giocava sempre in amichevole da noi, certo. Il Siena giocava da noi, con Ramaccioni c'erano rapporti d'oro, col Girardetti di Siena eccezionale, Arezzo molto meno si giocava con l'Arezzo. Sì, venivano, ma questi c'erano continuamente, insomma. Sì, De Perugia ho ricordi anch'io di amichevoli. E poi abbiamo giocato. Quindi Foiano era un momento anche, cioè un punto di incontro anche di altre squadre. Di altre squadre, sì. È venuto l'Atalanta, il Palermo, la Fiorentina, la San Benedettese, che a quei tempi era... giocava in Serie B. B, il Prato, come? Catania. No, il Catania mai, mai. Il Palermo sì. Io ricordo, ora se mi fermi, un amichevole con il Perugia, dove in un primo tempo il Foiano vinceva 1-0 e avevano Novellino in panchina, e poi lo fecero entrare e vinse il Perugia 7-1. Qualcuno fece... mi sembra, mi ricordo. Ah, ecco, abbiamo qui il goleador del Foiano. Io non mi, col non Palermo mi sicuramente, col Palermo fu una storia incredibile. Anche giornalate fecero anche... venivano a fare gli amichevoli, insomma, nella nostra zona prima di fare le partite di campionato. Allora vennero un giorno e fortuna ha voluto che il primo gol lo feci io, vincevamo 1-0 di testa. E allora le giornalate che vennero fuori dopo dissero subito: ma come, un giocatore di seconda categoria fa gol al Palermo? È andata così. Era andata evidentemente, così. Evidentemente c'era una ragione, c'era. Allora, questo era l'inizio. Aspetta, prego, poi, prego. Nel 72 già abbiamo giocato con la nazionale Under 21 a Firenze. Ah, ok. E anche lì ci fu una prestazione incredibile. Segnò il Pagliucoli. Il Pagliucoli e lo Zacchei erano giocatori nostri che poi abbiamo venduto al Prato. In Serie C sono andati. E lì facemmo bellissima figura. Dopo si perse 3-1 perché in fondo era nazionale. Però si fece un figurone. Da quella volta il dottor Fini, che era direttore del centro, quando capitava la nazionale, ce la inviava. E noi abbiamo avuto il Spalvargen, che era una squadra di Serie B della Svezia, poi la nazionale finlandese, la Russia, poi abbiamo avuto, magari se ne parla dopo, certo, la certo, nazionale sì, della Cecoslovacchia. E questo per noi era motivo. Doveva venire il Nottingham Forest, che aveva vinto due coppe dei campioni. Però il Nottingham Forest, da dirmelo Fini al telefono, allora non c'erano cellulari, dovevo indire una riunione. Si fa la riunione, il giorno dopo mi richiama Fini e mi dice: no, non si può fare più, perché i giocatori del loro a gennaio venivano un po', era fermo il campionato inglese, quindi e allora si di preparavano 15 giorni. Però avevamo fatto la dolce vita nei locali di Firenze, il presidente le ritirò tutti in Inghilterra e noi perdemmo un amichevole di lusso. A quei tempi era di lusso. Certo. Bene, come io vedete, per ora ho finito. No, no, ma ce ne sono di cose da dire, poi questo veramente tanto. Questo era solo l'antipasto. Mettiamo un altro brano e poi continuiamo con il calcio di Foiano. Buon ascolto dalle F frequenze. I tuoi sospiri sono delle note così eleganti, a tempo sincopato, disintegri i pensieri negativi. Quando nel sonno mi stringi da dietro, di emozioni dormiveglia, come sei dolce con la bocca aperta, prima di addormentarmi vado a bere, ti lascio lì un campo di pace, un'eclissi nel mio letto, la stanza è un planetario, forse sei l'amore al microscopio. We'll be right back. sotto più nessuno. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta. Pensieri negativi, quando nel sonno mi stringi da dietro, il seme sottinteso tra le righe di un pigiama provato dal tempo. Un'ipotesi nel letto, finita lì per sbaglio. Sarà quale libro che non conosco. Stavolta non consulto più nessuno. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta. Stavolta non consulto più nessuno. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta, lo faccio a testa alta. Amare basta. Non serve l'ipnosi aggressiva. Non serve un mago, è solo la vita. Serve un mago, è solo la vita, la vita, la vita. Cola Pesce con Reale. Pensa che questo è il gruppo di Nicola Pesce e l'ha chiamato Cola Pesce. È come la se fantasia ti... al potere. No, veramente. Vabbè, non importa. Oh, continuiamo. Stiamo parlando, abbiamo appena iniziato abbiamo a parlare di calcio. Una pennellata sull'organizzazione, sulla nascita della Cifoiano, esatto, di quegli anni. E ho come il sentore che non riusciremo a parlare nemmeno di un decimo di tutto quello che vorremmo ma parlare. Questo ma questo è tutto materiale che possiamo rifare per i prossimi puntata. 40 anni andare a sviscerare. Allora, se abbiamo visto un po' come è iniziato, Giuliano ci ha raccontato, Giuliano Poggini, come è iniziata un po' la storia del Foiano. Sentiamo un po' invece Roberto Mostacci come è iniziata la sua storia, perché Roberto non è foianese di nascita, ormai sì, foianese acclamato ora sì, ora sì. Un giocatore diciamo... che è diventato un po' la bandiera, esatto, del Foiano. Quindi, raccontaci un po', Roberto, come hai iniziato a giocare a calcio e come sei arrivato a Foiano. Come ho iniziato da piccolo, sì, da sì, bambino. Sì, sì. Da bambino ho iniziato come tutti i ragazzi dell'epoca, che andavamo all'oratorio e c'avevamo una squadra di ragazzini che facevamo quello che diciamo voleva il prete di allora, perché la prima cosa che ci imponeva era quella di andare a messa e poi andavamo a giocare a pallone. Certo. Ma è una cosa che credo sia capitata a molti di noi. Poi dopo nel crescere ho cominciato a giocare con delle squadre un pochino più organizzate, squadre di categorie che andavano via via sempre più, secondo l'età che ci avevo, andavano sempre più crescendo. Fino a che a una certa età sono andato a giocare con i Vigili Urbani di Roma. Avevo 16 anni, credo, 16 anni più o meno. E giocavo titolare con questa squadra di seconda categoria. E mi sono divertito perché abbiamo girato parecchie zone di Roma, quasi tutti i colli di Roma. Uh-huh. E per cui è stata un'esperienza discreta. In pratica, scusa Roberto, sì, era una delle squadre più fiscali, perché i fischietti più fiscali. Non, il fuorigioco non passava, no, solo no, fischiavano. Invece sembra di dire una fesseria, ma ci aspettavano tutti. dall'altra faccia della medaglia. Molto okay. Spesso non finiva tanto bene, okay. Però ci siamo divertiti anche lì, avevamo un bel campo, c'avevamo il campo a Lungotevere, mi sembra, come si chiamava, Lungotevere, in Viale Marconi, era il campo dove venivano anche la nazionale, venivano tante squadre. Quindi un bel impianto. Bellissimo impianto. Ho capito. Per cui era divertente. Certo, anche certo. E poi dopo, saltando di, così, di palo in frasca, diciamo che l'avventura Foiano è iniziata un giorno che io ero diciamo in villeggiatura, perché noi venivamo sempre con la mia famiglia qui dai miei zii, perché i miei sono nativi di Foiano, per cui okay. Venivamo qui e avevo lo zio l'Orvieti Egisto, era un grande dirigente, che mi disse: oh, guarda, sono dei ragazzi del Fogliano che si stanno allenando per il torneo a Bettone, se vuoi andare a fare un attimo a calcio. E sì, perché no? Certo. E da lì, insomma, qualcuno cominciò a vedere che io probabilmente qualcosa avevo, allora disse: ma perché non rimani? Perché non rimani? E poi intervenne la dirigenza. Che misero sul piatto un invito. Effettivamente intervenne la dirigenza, alla quale io, e non lo dico perché qui c'è il presidente Boggini, ma lo dico perché lo penso veramente. Con me sono stati delle persone eccezionali e le considero persone eccezionali ancora, benché purtroppo mi dispiace, ma lo devo ricordare, mi dispiace che non c'è più. Allora era direttore sportivo Giancarlo Valentini, è stata per me una figura fondamentale, perché gli ho voluto bene come fosse stato mio fratello maggiore, perché mi ha accolto benissimo, cercava di trovare, perché voi capite che io, venendo da una città, trovandomi in un paese, qualche difficoltà potevo anche averla. Invece lui mi è stato molto vicino, mi ha dato tanta, tanta volontà, per cui io mi sono ambientato benissimo, e poi da lì è nato tutto quello che è nato. Beh. Per cui devo ringraziare il presidente sicuramente e tutti quelli della società che mi hanno dato sempre. Vabbè, io qualcosa credo di aver ridato anche a loro, però insomma. In che anno sei arrivato, Roberto? Io nel 74. Nel 74 iniziai a giocare nel Fogliano. Sì. E sei rimasto con il Fogliano fino alla Serie D. Fino alla Serie D, compresa. Quindi 77-78? 79 forse. 78-79. Sì, 78-79. Sì. Oh, vorrei dire una cosa. Ma devi, Giuliano. Cosa impressionò di Mostacci, oltre alla prestanza fisica e la conoscenza perfetta del calcio? Impressionò le punizioni. Ora voi guardate il giocatore della Pirlo che batte queste punizioni, ecco, lui è paragonabile a... qui non le conosceva nessuno, non voglio umiliare nessuno, ma certo, c'è stato certo un gol con la Sansovino, poi magari la Sansovino ce l'ha rifatti a noi, certo. Però ci fu un gol a Bettone con la Sansovino che la tribuna rimase Pirlo. Ecco. Io dico la verità, avendo qualche anno meno di voi, ma nemmeno tantissimi meno, io ero un ragazzino e mi ricordo veramente tante di cose di quello, perché poi c'era mio padre che era appassionato di calcio, quindi io la domenica ero sempre allo stadio, facevo anche il raccattapalle nell'anno in cui il Fogliano è stato promosso in Serie D e nell'anno della Serie D, e mi ricordo benissimo veramente delle prodezze sia di Roberto che di tutti gli altri, perché realmente erano giocatori che forse oggi, senza, penso di non dire grosse cavolate, avrebbero potuto giocare tranquillamente. Bravo. In altre serie. Se mi permettete, Giuliano, la Valle in quel momento, Cortona, Castiglioni, Fogliano, Sinalunga, il Tegoleto venne dopo, ma era anche questa una grandissima, certo, squadra, la Sansovino, non so se l'ho rammentata, ecco. Cortona. Sì, l'ho già detto. Cortona. Queste squadre qui, prendevi, lui c'era fra i migliori, 4-5 i migliori di queste potevano, allenati da professionisti, partecipare tranquillamente a un campionato, non lavorare e poi venire allenati. Sì. C'erano dei giocatori nella nostra valle, in particolare anche qui a Fogliano, che potevano fare ma comodamente una Serie C se non una Serie B. Il Mostacci aveva sia il fisico sia le doti, ripeto, sia l'ABC del calcio, perché lui parla dell'oratorio, non è che a 15-16 anni cominciò a giocare, si vedeva che c'aveva qualche base. Esatto. Poi quando l'abbiamo preso tutti si sono morsi perché l'avevano vista Sinalunga, lui tutta la storia te la dice. Valdambrini lo vide dalla rete a Sinalunga, subito lo segnalò, questo ragazzo è alle doti, perché Mario aveva un occhio particolare. Infatti guarda, siccome stiamo facendo un po' di nomi così, se vogliamo ricordare appunto proprio tutti, sarà impossibile, sono d'accordo, po' di nomi, ma non tanto dei giocatori li ricordiamo dopo, ma il gruppo dirigente io vorrei ricordare purtroppo a quelli che non ci sono più. Uno l'ho già detto, che era Lugolini. Il Valentini, che era un autodidatta, ma come giocatore il Valentini era all'altezza di fare il direttore sportivo in qualsiasi squadra. Perché era un signore, aveva facoltà di parola, sapeva quello che diceva, rispettava le parole, e questo era una cosa che il giocatore, il ragazzo, ne teneva molto di conto, insomma. E io queste persone qui, il Tacconi, che voi conoscete, era il signore addetto all'arbitro, okay, ed era un grandissimo. Poi di quelli persona vivi, più equilibrata per fare l'addetto all'arbitro non poteva essere. Non poteva essere. Ma quello era fondamentale. E l'Orvieti, che lui ha ricordato che era il suo zio. Questi signori, che purtroppo non ci sono più, come Aldo Cardini, sono stati pilastri della società. Ora gli altri sono 40. Io no, a non memoria infatti, non, no, ci mancherebbe. Non voglio... Ma no, non vogliamo nemmeno fare la lista della spesa. Comunque, diciamo, certamente Mario Aldambrini apparteneva a quella categoria di capaci, Guido Storni, Torino Pecchi giocava nella vecchia Foiano di cui abbiamo parlato. Più è diventato presidente, poi quando sono stato eletto io presidente lui era vicepresidente, ma molto attivo, molto competente, molto signorile, non cagnarra da creare problemi, certo, o altro. Certo. Era una società eravamo una società di 40 perfetta. Persone, non c'era un leader che aveva comprato la squadra e poi si contornava come succede oggi in molti posti. Queste erano 40 persone che tutte 40 garantivano, esatto, capito, anche sia economicamente che sia con la presenza fisica, economicamente per forza, perché non c'era altro sostentamento, anche perché non gli costavamo qualche soldino. Beh, se lo dice. No, lo dico io perché diciamo è un aneddoto, no, anche questo, perché noi non riscuotevamo come fanno oggi una cifra fissa. Il presidente, secondo me, è anche una maniera più giusta per poter pagare i giocatori, diciamo così. Lui pretendeva che noi andavamo in campo e vincevamo, allora a vittoria ci dava un tanto, un tanto a vittoria, un tanto a punto, diciamo. Sfortunato così. Però Giuliano, perché vincevate parecchio. Se non vincevamo non prendevamo niente, che è anche un bel incentivo. Era un bel incentivo, però erano parecchio sfortunati. Noi studiamo questo sistema, che bassissimo lo stipendio, era quasi ridicolo. Era per quelli esterni, se c'era qualcuno di fuori, spesa. C'era un rimborso per la benzina, okay. Però i premi, grandissimi premi partiti, doppi fuori casa, premi alti, sì, sì. In casa il pareggio era zero, che... proprio come la meta inglese, Però questi ragazzi l'accettarono. E adesso ho guardato dei documenti, intanto che parlava Roberto, in questi documenti che ha lui, dopo mettiamo anche una foto, si vede che alla decima giornata eravamo sest'ultimi, l'anno che abbiamo vinto il campionato. Io quando tornarono l'avrei lasciati a piedi, ecco. Ma quando si tornò negli spogliatoi, se te lo ricordi, io dissi: vabbè, allora niente stipendio, niente rimborsi spese fino che non vincete sei partite a fila, che era un calendario possibile. Il Patriarchi fu uno di quelli, se no lasciate la borsa e andate via. Pensate. E il Patriarchi andò via dopo 10 minuti, o lo richiamarono, che veniva da categorie anche importanti, insomma. Comunque le vinsero sei partite. Tutte. Vedi che con le giuste motivazioni si vince il campionato. Esatto. Che... fermiamoci un attimo, facciamo un altro brano e questo poi è vero. Ci credo, certo. Power, power is the first time. questo era Michael Jackson, il titolo non, è inutile dirlo, no? Sì, aspetta, don't stop till you get enough, quasi, Simone. Ciao Simone. Ciao Simone. Ciao a tutti. Ciao. E volevamo dire qualcos'altro su questo brano? Ma, del 79, è del Roy del Pop, appunto, Michael Jackson, e l'album valse a Michael Jackson appunto il suo primo Grammy Awards, e fu il primo nella storia della musica a avere in classifica ben 4 singoli. Scusa, non ho capito, nel 79? Ecco, un po' prima del 79, nel 74 appunto, Foiano, questa squadra stava prendendo corpo, perché intanto i Fuori Onda sono bellissimi, ma rimarranno tali perché devono rimanere tali. Li potranno sì, rivedere, esatto, su YouTube. Però il 74 vede anche l'arrivo dell'allenatore, sì, di un allenatore importante. Voglio ricordarci Giuliano, anche dopo Roberto? Sì, Da Valentini, da Valdambrini, fu segnalato questo Caroni. Ho già pubblicato una foto con Mister Caroni insieme a Roberto. Già aveva allenato a Bettolle, a Montepulciano, aveva fatto bene, diciamo benissimo. Noi lo portammo a Foiano e cambiò tutto tipo di allenamento, si basava molto sulla preparazione fisica. E posso, i giocatori... Scusami, posso interrompere una cosa? Prego. Qui vorrei dire una cosa io. Anche perché Roberto allora, si allenava con lui, con infatti Mister lui Caroni ha detto che dice ha cambiato preparazione fisica. Allora io vi dico che a me ne stava pensiero andare il martedì a allenare. Non vedevo l'ora che l'avevo finito. Erano pesanti. Ah, una cosa, pesanti, però la squadra se inizialmente però pochino così, però dopo finiva alla grande sempre tutti gli anni, e lui ebbe una serie di successi indescrivibile, perché dalla seconda categoria arrivavamo fino alla serie D. Ecco, io infatti, scusa Giuliano, prima hai detto una cosa che mi ha un po', su cui volevo riflettere. Hai detto che la Vallata un po' offriva in quel periodo, sì, anche dei giocatori che avrebbero potuto affermarsi nelle serie superiori. Secondo te è diciamo anche proprio una questione di talento innato, oppure come mi stai dicendo ora, allora diciamo anche l'allenamento, il tipo di allenamento può incidere molto? Può incidere moltissimo, però ritornando alla domanda, mi piace, una domanda bella, intelligente, me l'ha scritta Enzo. Ritornando alla Vallata, il campanilismo, perché allora era un calcio campanilistico. Il campanilismo portava la gente ai mercati a parlarne, nelle fabbriche, nei posti di lavoro, nelle piazze, nei bar, dal barbiere, non si faceva altro, non solo da noi ma anche negli altri paesi, di parlare di questo calcio. Sembrava la Serie A, perché avere Cortona, Castiglioni, Sansovino, Sinalunga, insomma qui il fiore di questi, chiamiamoli campanili, portava a un calcio incredibile di passione, di viverlo passando parola, il rappresentante, l'impiegato di banca che viene da un altro paese, gli sfottò, che insomma la gente non è che l'accettava molto volentieri. Però che cosa successe? Che a un certo punto poi in questo boom vennero le radio. Radio F fu una delle prime ad arrivare a trasmettere le partite. Sì. Poi nacque Teletruria. Già dal 74 si davano le partite sia in diretta che in differita, e chi andava a comprare le antenne, ma questa radio qui fu veramente una delle fondamentali. Certo, certo. Poi se mi permettete, c'era anche Radio Foxis a Cortona, esatto, Castiglioni, sì. Telemondo a Torrita, Teleamiata a Montepulciano, eravamo TV 38 a Figline, sì, che il Valdarno usufruiva di questo, noi di Teletruria di i ragazzi cominciarono ad andare nelle televisioni, le radio le intervistava al campo sportivo. A volte succedeva che la radio X che veniva da porta non veniva accolta perché la persona magari non trovava la persona giusta, e questi si arrabbiava, non vengo più, ma 3-4 radio qualche volta. Quindi si era creato anche un certo movimento. Sì, privilegio l'aveva Radio F, perché credo che Radio F l'aveva anche se andava a Cortona o ad altre parti, perché era il top per quel periodo, faceva una trasmissione. Anche il programma del sabato sera. Sabato e il programma del lunedì. Anche il programma del lunedì era una cosa incredibile. Allora l'arrivo di questo cominciò a esplodere il discorso, sicché la corsa a fare delle grandi squadre, dei grandi campionati, se andate a vedere la classifica, queste squadre erano le prime 5 o 6. Infatti adesso arriviamo proprio al 1977-78, che è l'anno che No, 78-77. No, 77-78 che è l'anno in cui viene promosso il Foiano in Serie D, quindi fa la promozione. Tanto per far capire magari a chi ci ascolta un po' più giovane che non lo sa, la promozione era la quinta serie nazionale. Quinta serie nazionale, nel senso che non c'era C1, C2, esatto, ABC e D, e poi c'era la promozione. Tra l'altro in Toscana erano due gironi, per dire adesso ci sono due gironi di eccellenza, sì, tre di promozione, mentre invece erano solo due gironi di promozione, quindi era un valore molto più alto. Cioè, era il fatto più difficile. Di esserci non era un caso. Non era un caso. E quando avete costruito quella squadra là, Giuliano, sì, pensavate, l'avevate fatta per passare, o comunque per provare a passare in Serie D, oppure no? Nessuno ci crederà, ma noi quando la costituimmo in terza categoria, sia con Val d'Ambrini che tutti gli altri, ci facemmo un programma e dicemmo in 10 anni volevamo arrivare in promozione. In 10 anni volevamo arrivare in promozione e invece in 10 anni siamo arrivati in Serie D. Però il consiglio voleva arrivare, se non avessimo vinto non succedeva niente, certo, ma insomma, no, però arrivare. Quando c'era. Siamo arrivati in D, però eravamo solo 7 squadre della Toscana. Aspetta, di questo ne parliamo dopo perché è molto bello, anche io ho dei ricordi vaghi, però mi piace. Però rimanendo vorrei un attimo, aggiungere una cosa, ah, sì, io il boom, riferendo alla domanda che ha fatto come Marcello, avvenne anche perché il torneo di Bettolle in quel periodo aveva preso un campo tipo campionato del mondo. Sì, mi ricordo. Il campionato di calcio era importantissimo, però tutte le squadre poi si organizzavano per partecipare al torneo di Bettolle, che durava un mese, con i migliori, sto dicendo i migliori giocatori che c'era in Toscana, Umbria, Lazio e anche fuori da qua, anche da queste zone. Sicché vedevi, non so, un Cortona con giocatori molto dell'Umbria ma favolosi, un Sansovino stratosferico, il Guazzino, il Torrita, cioè squadre che queste che ho detto prima erano tutte iscritte, ma alcuna non era neanche in federazione, però si facevano una colletta, e ci trovavamo di fronte dei giocatori incredibili, con arbitri incredibili e un pubblico a Bettolle che a quei tempi, ancora sto parlando all'inizio degli anni 70, ancora l'agricoltura tirava, cioè smettevano di lavorare di giugno, quando si può lavorare fino alle 10, le fabbriche che facevano i turni smettevano perché ne andava, la gente andava, mangiava di corsa per andare a vedere la partita a Bettolle. Non è uno spot per Bettolle, ma va dato riconoscenza a questa gente, tipo Boris Boricchi e Massimo Severini, che erano quelli che organizzavano il tutto, che crearono un qualcosa di veramente incredibile. E a giocare al torneo di Bettolle ci veniva, noi andavamo a prendere i giocatori anche a Firenze, venivano. Era prestigioso vincere il torneo di Bettolle. Era prestigioso, sì, mi ricordo. Era diventata come la Coppa dei Campioni. È vero, è vero. Certo, tipo, bravo, tipo Coppa dei Campioni. Esatto. È diventato dedicato di Flavorea anche a giocare nel Foiano. Vabbè, noi non abbiamo fatto ora No, vorrei solo ricordare, se ve la ricordate, penso di sì, la formazione proprio quella, diciamo, tipo della promozione. C'è qualche della promozione qui, io una delle formazioni, diciamo, che ha giocato. Ma noi avevamo pochi giocatori, quindi sì, non eravamo tanti, anche perché allora, panchina corta nei confronti di oggi, dove magari è obbligatorio far giocare i ragazzi giovani. Sì, certo, sì. Quindi il calcio è cambiato proprio in maniera totale. O si sostituiva un solo giocatore. Si sostituiva, allora sostituiva, c'era una sola sostituzione. C'era un tredicesimo solo che entrava. E poi, ripeto, era il vantaggio che avevamo noi magari rispetto a oggi, che non c'era l'obbligo di far giocare i ragazzi giovani, per cui eravamo tutti noi, e allora era più semplice anche per un allenatore. E giocava anche chi sapeva fare, ma noi modestamente lo sapevamo fare. Allora vi leggo una formazione, prendo una partita a caso, sì, delle cose che c'ho. Foiano Poggi Bonzi, non a caso era quella che ci contendeva, diciamo, il titolo, che a questa squadra, fra l'altro, voglio ricordare che ci toccò la prima partita di campionato e ci fecero letteralmente neri, come si dice. Però arrivarono ad avere 12 punti di vantaggio su di noi, quando c'erano due punti per quando vittoria, c'erano due punti, arrivarono ad avere 12 punti di vantaggio e noi piano piano, strada facendo, piano piano arrivavamo a vincere il campionato con 3 punti di vantaggio su di loro, con quel discorso del blocco, comunque vi leggo questa formazione che era composta da Lulli, Fracassi, Petrelli, Fiorini, Iaconi, Patriarchi, Pasqualini, Bignozzi, Mostacci, Maccari e Biancucci. Questa era una formazione tipo allenatore Caroni, allenatore, abbiamo detto. Allenatore ovviamente Carlino Caroni, quale magari tipo Messi. Ma ecco, no, ma comunque sembrano cose dette forse in modo esagerato, ma in realtà anch'io, ripeto, avevo ero piccolo, ma ho dei ricordi di una squadra con dei giocatori di un livello calcistico molto alto, molto molto alto. Senza nulla togliere alle squadre di oggi, ma per ritrovare quel livello lì bisogna veramente andare su come categorie. Allora io dico sempre una cosa, ma non è per falsa modestia o perché, però ai tempi che giocavamo noi, anche prima, i giocatori, visto che c'erano molto meno diciamo squadre in giro, però come giocatori di qualità in una squadra ce n'era almeno 10. Esatto. Oggi se ne troviamo uno o due è già tanto. Essendoci tante squadre. Sì, no, infatti è più diluita. È più diluito, certo. Potremmo giocare in terza categoria anche io e te, Marci, per ecco dire. Ora sì, ora va stabilito un po' il ruolo, ma ecco, volendo okay. Potrebbe essere disponibile. Allora, come tanto lo so, stiamo già arrivando alla fine, sarebbe ancora da parlare di tante cose. Intanto andiamo con un altro brano e poi rientriamo e parliamo della Serie D. Sì. Questo era Moby in tutti insieme. Yeah, questo era Moby del 1999 con Porcelain. Wessa. Ok, ma siccome l'argomento è veramente. Scusa Enzo, ti interrompo. Ti interrompo da Ascoli. No, volevo mandare un saluto a Monica perché ho scoperto che il babbo Flavio Rea ha giocato un anno con il Foiano e qui è una tua amica. È una collega esatto. E il mondo è veramente piccolo, gira rigira. Beh, tutti passano dal torneo di Bettoni se vogliamo. Allora, prima di parlare della Serie D con cui concluderemo questa puntata, ma ne servirebbero 12, la cosa che mi dispiace di più, ma tanto abbiamo le immagini, è tutta la documentazione che i nostri amici hanno portato, perché sarebbe da starci a giornate intere. Dicevo, prima di parlare della Serie D vorrei parlare due secondi anche con quello che è stato, se non il primo, ma uno dei primi medici sportivi abilitati, ed è un carissimo amico tra l'altro, Fausto, il dottor Fausto Cerini. Fausto, come essere medico sportivo del Foiano? Aspetta, scusami, no, devo ricordare un'altra cosa. Lui è stato medico sportivo del Foiano, ma poi ha fatto anche una carriera, perché è stato medico sportivo dell'Arezzo in Serie B con il Siena quando è stato in Serie A, quindi insomma da Foiano sono partiti solo personaggi di un certo, di una certa statura. Sì, è stata una grande soddisfazione per debuttare come medico, allora neolaureato, nel 1973-74. Sì, sì, sì. Ovviamente devo ricordare un grande amico, il mio collaboratore Alirio Ghezzi, il fisioterapista. Ah, sì, certo. Famosissimo. Per cui poi sono andato, come hanno ricordato Enzo, come medico dello sport ufficiale nel 1978-79, cioè col debutto in Serie D. Me la ricordo ovviamente con grande piacere, perché il 17 settembre 1978 debutta il Foiano allo stadio De Pini con Foiano Carbonia 1-1, gol di Fabbrini e Porcu. Non la dimentico questa data, perché il 17 settembre nasce Veronica, che è la mia figlia. Sì, questo aneddoto io lo conoscevo. Corsi e ricorsi storici. Tra l'altro, no, vogliamo dire che insomma eri all'ospedale con tua moglie mentre partoriva. È proprio così, è proprio così. Ma poi comunque è corsa al campo, ovviamente, perché il Foiano era il Foiano, era troppo importante. E non dimenticherò, quando sono arrivato allo stadio, pochi minuti che è nato la Veronica, il presidente, il grande presidente Giuliano, era pronto con lo spumante prima della partita. Questo è vero. Beh, certo, sicuramente persone di un certo valore, non senza dubbio. E parliamo ancora anche con un'altra persona che avete sentito in fondo. Infatti abbiamo la dirigenza, l'organizzazione, i giocatori, la parte, diciamo, sanitaria e di, diciamo, sì, di assistenza, tutto quello che... ma poi i tifosi, in rappresentanza dei tifosi, uno dei tifosi più critici della storia del Foiano, il Solone, come dice il presidente Giuliano. Questa sera un rappresentante, direi emblematico, perché pare che sia uno dei più accaniti, e so che lui svolgeva uno dei mestieri più importanti, delle attività più importanti, che era quella di diffondere il verbo e gli appuntamenti del Foiano in tutta la valle. Sì. Allora, Augusto, quante partite hai visto del Foiano? Hai idea? Come faccio a numerarle? No, mica quanto, ma secondo te 100? Anche 100, vogliamo sapere anche di dentro e fuori, tutte penso. Non ce n'è stata una che abbia perso. Sei tuttora abbonato alla C Foiano? Sì, sono abbonato, Vabbè. Sì, sono abbonato. Bravo, sei abbonato. Che esperienza era il Foiano di quegli anni e quanto, diciamo, ti ha preso? Guarda, io amo tanto ballare, ma rinunciavo per andare a vedere il calcio. Ecco, per chi conosce Augusto, questo dice tutto, insomma. In qualche modo facevamo ballare anche noi. Io ho ballato comunque tante volte in tribuna con le varie musiche che mettevano negli stadi. Mi ricordo io, siccome Foiano era anche famoso, diciamo, per una tifoseria abbastanza accesa, no? In quegli anni lì, io ho un ricordo di una terna arbitrale c'erano due volanti dei carabinieri, una ha fatto finta di portarli via e tutti i tifosi sono andati dietro, e poi in realtà è andato via con l'altra macchina, la terna. Ecco, te in quale macchina seguivi? No, io non seguivo, io l'arbitro l'ho portato nel mio ufficio. È vero. L'ho portato con Pasqualini, che ha preso poi 5 giornate di squalifica, e l'arbitro è stato fino alle 6-7 lì in via Piana, dove avevamo il lavoro, ad aspettare di poter andare via. Quindi diciamo abbiamo fatto anche una rapida carrellata su quello che era il tifo. No, comunque il mondo del calcio è vario e ci sono tanti protagonisti. Perché la squadra non vinceva, quando vinceva non c'era bisogno vorrei sperare che almeno quando vinceva l'arbitro fosse in gol. Erano anni fuori successivi. Certo. Qui qua mi stanno dicendo qualcosa il pubblico. Dimmi Giuliano. Volevo dire il pubblico, ma vi do dei dati. Noi abbiamo giocato Sansovino Foiano. Ecco, anche questa che è una delle rivalità. Il Sansovino, i dirigenti del Sansovino, e ricordo Salvadori, grandissimo presidente, voglio ricordarlo, come grandissimo era Alunni di Cortona, il Conte Martelli di Castiglione, Castiglione Fiorentino, il Giannini di Sinalunghi, vorrei ricordarli tutti perché ho avuto dei rapporti eccezionali. mi dissero che a Monte San Savino, quando abbiamo giocato a San Savino, hanno incassato più di 6 milioni con il biglietto a 1.000 lire. Mamma mia. Allora, voi pensate quanta gente seguiva queste squadre. È una cosa immensa. Noi abbiamo giocato col Poggi Bonzi, che lui ha ricordato, che è lontano 80-90 chilometri, e abbiamo fatto 4 milioni e 8 di incasso col biglietto a 1.000 lire. Però il San Savino bruciò tutti questi dati. Forse l'Arezzo non giocava in casa, ora io non le ricordo. Noi siamo andati poi in D a giocare in Sardegna. Aspetta, l'Austerity, noi alla Miata siamo andati con 4 pullman. E così lo spieghiamo, l'Austerity in quegli anni non si poteva andare. Più il pullman dei giocatori. Noi siamo stati chiamati poi in federazione e dice: ma come, i pulmini del Moretti, del Fabbri, le requisite qui, tutti hanno diritto? Ma si correva in anticipo per vedere, accontentare sportivi, altrimenti li perdevi praticamente. E la Sardegna, un altro dato, noi abbiamo fatto nella partita con l'Iglesia 4 aerei e 27 persone sono venute con la nave, perché dice avevano paura. Allora dunque spieghiamo, perché allora, la serie un aereo era dedicato a giocatori e dirigenti, il massimo che potevamo essere 40-45, ma gli altri, che poi c'erano altre, perché usufruivamo di uno sconto particolare, certo, FG... c'erano anche le altre squadre di basket e di pallavolo che andavano a giocare in Sardegna, ma gli altri aerei erano occupati da i pullman nostri che portavano i tifosi. Il presidente dell'Iglesias, Gravellino di nome, dopo un mese o due è passato per problemi di per motivi di lavoro lungo l'autostrada, mi ha chiamato, che il mio numero lo conosceva, e mi ha invitato a pranzo all'Apogeo. È uscito dall'autostrada ringraziandomi che tutte queste persone gli avevano permesso di pagare degli stipendi arretrati ai giocatori. Incredibile. Sì, perché dunque l'anno della Serie D 78-79 ovviamente era un campionato, quello che è stato definito per alcuni anni poi successivamente interregionale, ovvero si andava fuori regione a giocare, sì. E essendo in centro Italia c'erano 7 trasferte, 5 trasferte in Sardegna che non potevi fare altro che con l'aeroplano. Anzi, 2 aerei, perché quando giocavamo a Alghero bisognava andare all'aeroporto di Elmas a Cagliari, si è preso un altro aereo per andare a Alghero e poi andare al pullman per andare a Torres, stadio da 20.000 persone la Torres. Quindi certo, perché poi ha fatto altri campionati. Quindi grandissime soddisfazioni. Poi avete giocato anche il Lazio, giusto? Sì. Il Lazio 5 trasferte fino a Cisterna di Latina, che è vicino al confine della Campania, Spoleto, che era in Umbria, e queste 7 toscane, che era Lorbetello, Piombino, Pietrasanta, Rondinella, Cuoiopelli e noi. Mica avete una formazione della Serie D? Ce l'ha lui. Io ho già pubblicato la formazione su Facebook, si vede già, sia la D, vediamo, la D dei festeggiamenti, che la squadra, guarda, che poi ha partecipato. Vediamo un po'. Sì, almeno così ci diamo anche un'idea di quelli che erano i giocatori. Aspetta, vediamo se trovo quella, diciamo una. Intanto, siccome come si è concluso il campionato, infatti, della Serie D? Siamo retrocessi. Lasciamo perdere. Ma siamo retrocessi, però spieghiamo come, perché veramente per un non nulla. Siamo arrivati a pari punti, mi sembra, con lo Spoleto. Per differenza reti. Siamo retrocessi per differenza reti. E poi la partita decisiva, che era l'ultima, mi sembra. Sbagliamo il rigore. Sbagliò il rigore con Girelli. Pareggiamo e ci bastava un punto. Allora c'erano 2 punti soli. Certo, quindi quel gol avrebbe fatto la differenza. Probabilmente sì, e saremmo rimasti in categoria. Allora, dici una informazione, vai Roberto. Comunque, così. Eravamo più o meno i soliti. Certo. Qui Lulli, Fracassi, Grifoni, Bartalesi, Iaconi, Del Pasqua, Petrelli, Fabbrini, Mostacci, Mencacci. Poi c'era i Buzzichelli, che era un grande acquisto che avevamo fatto dalla Colligiana. E Pasqualini, che lui è sempre stato con Mauro. Noi. Ma anche Del Pasqua, si prese dalla Casertana. Io... Del Pasqua, sì. Quindi diciamo, furono fatti degli investimenti anche per quell'anno lì. Insomma, anche l'intenzione... Bartalesi era un grandissimo giocatore, veniva dalla Figlinese. Comunque io ho un rimpianto, lo voglio dire. Prego. Perché nel periodo estivo, quando si faceva la campagna acquisti, Ramaccioni, che allora era direttore sportivo del Perugia, avevamo rapporti ottimi, ci offrì Rambotti e Pazzaglia e noi avevamo paura, sia per la spesa, che ci voleva a quei tempi 20 milioni, però, sia per lo stipendio, e poi mi offrì Ottoni, però Ottoni che poi andò al Perugia, certo, eccetera, e mi diceva pago io lo stipendio, pago io. Insomma, fatelo giocare. Sì, però voleva che facesse giocare, certo. Andò che non si comprarono per vari motivi, ma anche perché era comprensibile. Io ero in quel periodo lì rimasto solo con altri due o tre dirigenti, era impossibile riunire perché non c'era, ripeto, né il presidente né il magnate dietro al presidente, certo. Eravamo, bisognava riunirsi tutti e 30, 40 quanti erano. Era il periodo delle ferie, era tutto chiuso e non avemmo il coraggio, eravamo rimasti io e Franco Angori, non avemmo, al quale va tutta la nostra riconoscenza, perché anche Franco Angori è stato un grandissimo dirigente. Però se ci mettiamo a elencare, no, non finiamo io mai, rischio di non me le ricordare, brutta. Ma infatti, secondo me, quello che viene fuori da questa chiacchierata è che il fatto che a Foiano ci sono state veramente delle grandi persone che hanno voluto bene alla squadra, che hanno voluto bene al paese, che hanno, ci hanno messo soldi, hanno sacrificato tempo, però diciamo che il risultato è stato eccezionale, perché sono stati momenti irripetibili, credo, sportivamente, perché veramente tuttora, se siamo ancora a parlarne, vuol dire che qualcosa avete fatto. Infatti volevo ringraziarvi, perché innanzitutto dell'invito, perché è stata per me una sorpresa, perché devo dire questo, che mi fa particolarmente piacere, perché vuol dire che qualche cosa abbiamo seminato. Certo, senza dubbio. Perché sennò saremmo rimasti nel dimenticatoio come tanti, insomma. No, ma poi io, Enzo, aggiungo una cosa a questa cosa che ha detto Roberto, sul fatto che queste piccole semine che vengono, che noi con la nostra trasmissione stiamo scoprendo, vanno rinverditi ogni tanto. Sì, assolutamente. Perché sento che forse la cosa che più può trasparire da quello che ci hanno detto i nostri ospiti stasera è la passione senza per dubbi. Lo sport in generale, ma poi per l'associazionismo, per la squadra paese. E poi per le esperienze che hanno riportato in comune tutte queste persone. Sì, assolutamente. Una cosa bella, se mi permettete. Prego. Vorrei dire una cosa, non solo ricordare queste, ma ricordare che negli anni 60 qui a Foiano è nato, oltre che questa squadra di calcio, il carnevale era sospeso, sì. E nel 61 l'abbiamo io ero un ragazzo, ma insomma l'abbiamo rimesso in piedi. 62-63. No, il primo anno non si gareggiò, ma si gareggiò nel 62-63. La pallavolo è arrivata addirittura in Serie A2, certo. Sì, è vero. Qui il Garibaldi, il Medioevo, sì, il Cinema Apollo, qui il sabato, la domenica, pullulava di una marea di. Ora, mi dispiace che un teatro bellissimo come questo, anche storico, che faceva comodo a tutti, sia così fermo e bloccato. Il cinema non c'è più, il Medioevo ha chiuso, ed è una cosa. Sono dei segnali, insomma. Speriamo, da voi fate bene, bisogna ripartire, come no? Radio a riniziare queste cose. Se c'è la memoria e la storia, vuol dire che l'abbiamo già fatto. Perché non riprovare a partire? Vabbè, questo, e con queste parole di speranza, io purtroppo, ma malincuore veramente, perché le cose da dire sarebbero. Ma chissà, faremo un'altra puntata più avanti, ne parleremo ancora di più. Buon ascolto. No, aspetta che c'è Giuliano, voleva dire un'altra cosa. No, mi sono dimenticato di ricordare che un grande arbitro che ora è a capo degli arbitri veniva ad allenarsi sì. Da noi il giovedì, Nicchi, e che poi ci ha anche arbitrato e si è anche perso, non è che stiamo parlando dell'arbitro. Allora, Marcello Nicchi, che è stato arbitro internazionale, adesso è presidente dell'AIA. Sì, quando aprì. Facciamo così, vi prometto che facciamo un'altra trasmissione, okay. Perché siamo fuori tempo massimo di 7 minuti, ma la rifaremo, la rifaremo più avanti un'altra, perché poi c'è anche l'altro arbitro a cui dovevamo portare gli scarpini, insomma, cose molto belle. La cosa più bella è quella che abbiamo detto, però, la speranza di un posto vicino all'autostrada, è il più grande centro tra Firenze e Roma di svincolo di strade, di traffico. Non a caso è nata l'autolette, perché degli studiosi più bravi, più intelligenti anche di loro, hanno scelto questo posto. Questo è un posto che può far vedere, ospitare, far divertire, non solo per il calcio, ma per tante altre cose che invece sono andate un po' chiudendo, anche dica, in altri paesi, però la speranza è quella che ha detto Marcello. Noi con queste parole di speranza, diciamo qui anche un po' per questo, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, e con voi, con gli ospiti di questa sera, Augusto, Roberto Fausto e Giuliano. ci rivedremo sicuramente più avanti, perché ce ne abbiamo ancora tante cose. Ringraziamo anche Alice che anche stasera si è fatta venire un po' di artrite, di artrosi al braccio, per favorire le immagini che andranno su YouTube. Ce l'abbiamo fatta, ci sentiamo giovedì prossimo. Da domani trovate sulla pagina Facebook questa puntata, fra dei prossimi giorni sul canale YouTube le immagini di questa puntata. Buon ascolto dalle F Frequenze. Avete ascoltato, forse ve lo dico, avete ascoltato Piazz'Alta, un programma di e con Marzi e Enzino. Alla conduzione tecnica Simone. One. Alle riprese Alice. Ice. A giovedì prossimo. Ossimo.